Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Apparentemente insospettabili, se non per quelle frasi intercettate dagli uomini della Digos di Brescia che hanno consentito agli investigatori di individuare e sgominare una cellula dell'ISIS. Quattro kosovari sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia di Stato in collaborazione con i colleghi di Pristina in Kosovo. Tre di loro erano in Italia, a Chiari nel Bresciano, a Savona e a Vicenza. Il quarto, il cervello del gruppo, era tornato in Kosovo e da lì coordinava l'attività del gruppo, molto attivo su internet, dove invitava la guerra santa in nome del sedicente Stato Islamico dell'ISIS. Per loro l'accusa è di istigazione all'odio razziale e apologia del terrorismo. Secondo gli investigatori erano organici all'ISIS, ma non è certo che abbiano partecipato ad esercitazioni in Siria. Nei loro proclami c'erano minacce esplicite anche a Papa Francesco. Sarà l'ultimo pontefice in Vaticano, dicevano al telefono, e in rete esultavano per gli attentati di Parigi. Oggi si è... Quello che noi consideriamo in questo momento il pericolo numero uno, che è questa sorta di limaccioso, indefinibile e in parte indicibile fenomeno del terrorismo islamico, con varie denominazioni, varie sigle, così ingenuo da muoversi in rete e farsi beccare come dei bambini che fanno gli scherzi via internet e vengono presi. Oggi la notizia è che un preside ha pubblicato gli atti di bullismo di alcuni bambini di una scuola media di Parma, mi sembra, che facevano i danni di un loro compagno, l'ha pubblicato nel sito Facebook della scuola dicendo: è un atto criminale, è possibile che ne parliamo soltanto quando ne vediamo l'esito, cioè vediamo la vittima dei bulli che fa un gesto disperato. È ora che i genitori sappiano che i ragazzi usano la rete in maniera deleteria. Questi ragazzini oggi stanno lì tutti con le orecchie basse, pentiti, dicendo che il loro era uno scherzo. La stessa cosa è applicabile anche a persone che nella lettura generale sono così ben organizzati, così imprendibili, così difficilmente individuabili. Oggi vorrei assieme a voi, dopo la pausa, analizzare quello che è un secondo livello di lettura rispetto a quello che sta accadendo. La maggior parte degli italiani osserva i telegiornali, guarda, legge i giornali, li giucchia i giornali, ascolta quello che si dice in giro. Poi c'è un'altra fetta d'Italia che va alla ricerca in rete di tutti i più possibili scenari, alcuni assolutamente fantastici, altri sempre basati sul principio lo sappiamo noi che. Poi c'è una fetta di seri e certificati studiosi che stanno in rete, guardano la rete, che osservano la rete e magari non scrivono su organi ufficiali, ma hanno comunque una loro visibilità. E in questa fetta di studiosi e di attenti osservatori del fenomeno terrorismo, come filtra attraverso le voci non ufficiali, questa mattina noi faremo affidamento. 800240024, a tra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Come avevo posto la domanda pochi istanti fa, questa mattina cerchiamo di osservare il fenomeno che più ci preoccupa in questo momento, che è quello del terrorismo di radice fondamentalista e islamica, attraverso dei punti di osservazione che non sono proprio quelli ufficiali, non sono proprio gli editorialisti di prima pagina dei primi 3-4 giornali che ci sono in Italia. Uno di questi è sicuramente, come osservatore, Aldo Giannulli. Giannulli, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Giannulli è un ricercatore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, è un esperto di terrorismo, esperto di intelligence, ha una lunga attività di consulenza anche con gli organi istituzionali, ha un sito dove pubblica tutto il suo pensiero che è aldogiannulli.it. Giannulli, ho letto una sua intervista che poi è scomparsa, poi riapparsa, non so bene, sul sito di Tiscali, fatta dal collega Giovanni Mariabello, che la trovo molto interessante. Vorrei cominciare il punto di osservazione partendo proprio da questo tipo di analisi che è stata fatta. Noi italiani ci sentiamo avvantaggiati perché abbiamo un'esperienza di gestione del terrorismo, perché ci ricordiamo le Brigate Rosse, ci ricordiamo la tensione trasmissione degli anni 70, primi anni 80. Ma i due fenomeni sono totalmente antitetici, vale la pena di ricordarlo forse? Beh sì, infatti non credo che l'esperienza che abbiamo fatto ci aiuti granché in questa occasione. L'avversario è completamente diverso, il contesto è completamente diverso, e Brigate Rosse è un avversario infinitamente più semplice di quello che ci troviamo davanti. L'unica cosa che rimane è la persistenza negli errori, questo sì. Anzi, ne stiamo facendo qualcuno di più in questa occasione. Ma lei è stato sentito, diciamo, dal COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Le è stato chiesto come la vedeva lei, visto che si è occupato in passato di terrorismo, di tutti i fenomeni, diciamo, eterodossi rispetto all'ordine che sono passati nel nostro paese. Le hanno chiesto una consulenza, le hanno detto come la pensava? No, sono stato ascoltato dalla riunione congiunta delle commissioni difesa e COPASIR. Come esperto della materia mi è stato chiesto cosa pensavo. Io mi sono espresso in modo molto critico su una serie di passaggi, in particolare sulla pessima idea di oscurare i siti jihadisti, che è un grossolano errore, perché da un lato ci priva di una delle pochissime fonti di informazioni che possiamo avere per studiare il fenomeno, capire le linee politiche, il dibattito che c'è, eccetera. In secondo luogo, perché controllando i server potrebbe essere estremamente interessante capire, non tanto perché non è che uno lo fa da casa, di solito vanno in internet point, quindi non tanto per individuare le persone, quanto per capire i flussi. Ad esempio, è provato che quando c'è un attentato in un paese, nelle settimane precedenti c'è sempre un'impennata di flussi di contatti intorno a questi siti provenienti. Ecco, forse vale la pena anche di ricordare, visto che i più giovani forse hanno una visione della storia diversa dalla nostra, che al tempo del precedente terrorismo non esisteva internet, i brigatisti passavano i volantini fatti col ciclostile e li nascondevano, se non so, dei tavolini dei bar, poi ci andatevelo a prendere, era diversa la cosa. Esatto, era completamente diversa la situazione. Adesso abbiamo questa che tutto sommato potrebbe essere una utilissima fonte informativa debitamente trattata, e soprattutto potrebbe essere uno splendido strumento di contrasto informativo. Dovremmo essere noi a fare falsi siti jihadisti per disorientare l'avversario, dividerlo, spaccarlo, cercare di influire. Ma in fondo, scusi, non è stata la tecnica del Patto Atlantico, ma anche del blocco dell'Est per tutta la guerra fredda, le radio nere, radio grigie, radio bianche, esatto, radio Voice of America, queste cose qua? Queste fonti di disinformazia. Qui una delle cose che potremmo recuperare l'abbiamo pure persa, e facciamo sciocchezze di questo tipo. La disinformazione non viene più contemplata come uno strumento di contrasto? Ma ho l'impressione che ci sia un sostanziale regresso dei servizi di intelligence a giudicare dagli errori continui che fanno, ma d'altronde parlano i fatti. Se dopo una cosa come Charlie Hebdo, a distanza di manco 10 mesi, ti fai fare un attentato nel pieno cuore della capitale di quelle dimensioni, beh, vuol dire che qualcosa non sta funzionando, cioè è proprio evidente. Guardate che... Ma non può essere, mi scusi Gianulli, io voglio essere fino in fondo equo in questa dissertazione, che in realtà è una cosa talmente nuova, e per la prima volta nella storia dell'umanità la rete venne usata in termini negativi a così vasto raggio, cioè come strumento di guerra proprio. Finora l'abbiamo sempre paventata, ma al di là degli attacchi informatici alle grandi industrie, alle banche dati importanti, non era mai stato... Non c'era nella nostra storia dell'umanità una rete terroristica che usasse la rete in maniera così efficiente? Beh, intanto la rete c'è da poco, ma comunque... Per questo non c'è un precedente, quindi non si sono preparati i servizi a questo contrasto. No, non funziona, perché comunque noi lo scontro lo stiamo coltivando da 15 anni, non da ieri. Sono 15 anni, ci abbiamo speso un pozzo di soldi, ci sono state 4 guerre, la bellezza di 4 guerre, è stato a disposizione dell'intelligence il più spaventoso apparato tecnologico mai esistito nella storia, e dopo 15 anni dalle due torri ci troviamo la strage di Parigi. Qualcosa non sta funzionando. Anche perché siamo stati terrorizzati dalla fiction, dai film, dalle notizie, dagli allarmismi, dai complottisti, di questa grande rete di sorveglianza. Siamo tutti sorvegliati, sanno tutto di noi. Sorvegliati, ma questi fanno quello che vogliono. Questo. Fermiamoci un secondo. Bruno Ballardini, secondo ospite. Buongiorno Bruno. Buongiorno a tutti. Esperto di marketing e comunicazione strategica, ha scritto due libri, Marketing dell'Apocalisse, Ballardini e Castoldi, un altro libro dedicato al marketing di Papa Francesco. In qualche maniera anche l'altro ospite, anche Giannulli, ha scritto un libro che bene o male si occupa comunque della strategia della Chiesa, però in questo momento la strategia che ci interessa è di altro segno e altro tipo. Tu che sei invece un grande osservatore e il tuo libro è fatto soprattutto anticipando quelli che erano i segnali che oggi quello che dovrebbe accadere scomparirebbero, non avresti più le tue fonti, diciamo, di osservazione del fenomeno se ci fosse un oscuramento generale di tutti i siti? Assolutamente, sono d'accordo con Giannulli, perché tra l'altro questa cosa è stata contestata anche da organizzazioni di analisti vicini al governo, verso Anonymous, che tende a fare azioni per oscurare tutti i siti, quando poi in realtà ci stavano già lavorando loro, e quindi serviva avere un contatto con queste fonti dirette per poterle controllare. Quindi la strategia indicata da Giannulli è correttissima ed è quella che ancora non è stata messa in atto. Fa un po' sorridere che tutti pensiamo che il salvatore dell'Occidente sia Anonymous con quella bella mascherina, con i baffetti. Molto suggestivo, ma secondo me sta da un'altra parte in realtà il problema. Purtroppo no, perché Anonymous butta giù i siti, ma questi hanno altrettanti informatici e hacker bravi, per cui dopo 5 minuti li rimettono su, quindi è assolutamente inutile, è forse solo simbolica la loro azione, ma non serve. In realtà tu invece cosa stai osservando dal tuo punto di vista? Così poi confrontiamo sia il punto di vista di Giannulli e quello tu che quotidianamente comunque... Anche tu ti muovi, diciamo, su zone liminari, ogni tanto vai in televisione, ti chiamano così, ma perché hai scritto un libro, però in realtà c'è una vasta azione, diciamo, di informazione allo stesso tempo di necessità di dare una mediazione equa all'infornata di notizie che vanno in rete, molte volte appoggiate semplicemente su se sentito dire, visto, hai fatto. Ecco, qual è la via giusta nell'osservare il fenomeno attraverso la rete, che è in sé un mezzo di difficile mediazione? L'unica via giusta è quella diretta, cioè quella che non fa nessuno. Anche Giannulli diceva, siamo abbastanza sguarniti, ma i servizi si svegliano adesso, vengono segnalate sulla rete delle cose, ad esempio una l'ho segnalata io, mio malgrado purtroppo l'imminente attacco, imminente può voler dire fra pochi anni, ma un attacco di grandi proporzioni di cui ci sono tutti i segnali. Ebbene, i nostri media generalisti fanno di tutto per evitare di mettere in giro notizie del genere, perché non sono pronti a gestire la reazione del pubblico, e quindi poi alla fine la parola proibita è attacco a sciame. Attacco a sciame, parola proibita, io ormai ne ho parlato su Rai 1, ho fatto il mio dovere civico, poi qualcuno agisca di conseguenza, però il discorso è questo, si tratta il pubblico come se fosse composto da bambini, proteggendolo come si faceva all'epoca della Rai di Bernabei, con un ufficio apposito che censura tutto ciò che è pericoloso. Ora la gente non è stupida, la gente vuole sapere, e i giornalisti non stanno facendo affatto il loro lavoro, questa è la mia opinione. Questo diciamo, è il tuo punto dolente che ogni volta riproponi. Vediamo un po' di capire, ci fermiamo un istante, adesso dobbiamo dare la linea. Con due osservatori, ripeto, sono due osservatori atipici, però fra i tanti che la mattina si svegliano, accendono Facebook e ci postano le foto dei gattini con la stessa leggerezza con cui postano poi i filmati che vengono da chissà dove, sono due persone che in realtà ci mettono la faccia, rispondono in quello che dicono e hanno anche strumenti professionali per avere a tutti gli effetti attendibilità rispetto a quello che dicono. Tra un istante. Invesco, per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Dal 4 dicembre Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà. Il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Melog. Cronache meridiane. Ho 800 24 0024. Stiamo parlando di terrorismo a radice islamica, stiamo parlando di prevenzione, di contrasto, di punti di vista differenti rispetto a quelli ufficiali. Ricordo che abbiamo come ospiti Aldo Giannulli, che è ricercatore di storia contemporanea, Università di Studi Milano, esperto in terrorismo, e pubblica tutte le sue ricerche su www.aldogiannulli.it. Lei, Giannulli, ha anche qualcosa, diciamo, da osservare e sottolineare rispetto a quello che è il grande dispiego di soldati armati alle metropolitane, telecamere di sicurezza, gli obiettivi sensibili indicati. Anche su questo, secondo lei, è una strategia che non funziona? Ma guardi, il problema è che c'è una specie di legge di comportamento per la quale il terrorista colpisce sempre l'obiettivo che gli lasci. Siccome è impossibile blindare tutto, metropolitane, supermercati, chiese, musei, caserme, eccetera, inevitabilmente io vado a mettere le bombe nei Vespasiani, che è l'unico posto che non c'è, che almeno qualcuno prendo, ecco, questo, in teoria. Appunto, ma insomma, cioè, naturalmente tu che puoi fare? Proteggere, se ti va bene, il 5% degli obiettivi possibili, quindi obiettivamente giocare in difesa non conviene. Se proprio vuoi fare un apparato del genere, che ha una sua utilità, ce l'ha, conviene farlo a visibilità zero, con nessuna visibilità dei militari. Però io considero anche che c'è un aspetto di gestione politica della situazione. La gente vede i militari, certo, col fucile alla metropolitana e dice: beh, c'è qualcuno, se non ci fossero. Sì, solo che questo è totalmente controproducente quando poi l'esame, l'attentato riesce, perché nell'immediato hai un effetto placebo sulla gente, ma quando poi l'attentato riesce, questo fa una fama di invincibilità dei terroristi e di impotenza degli apparati, quindi è un effetto total boomerang, totalmente contrario. Anche perché un sistema di sicurezza totale o totale, diciamo, in percentuale alta, ci vuole ben altro che due militari con il fucile davanti alla scala mobile, onestamente. È molto più produttivo avere ronde in abiti civili su auto civili con jeep già pronte a intervenire, ma chiuse nelle caserme con uomini sopra che si muovono appena c'è un'emergenza. Il terrorista non deve, almeno creiamogli il problema di capire se può muoversi o no. C'è da dire però c'è un'altra fattispecie che non era stata mai considerata, se non ai tempi delle ultime fasi della seconda guerra mondiale. Abbiamo a fare con avversari per cui morire in fondo è considerato quasi un privilegio. È difficile una persona che non ha nemmeno la strategia della ritirata o di salvare i propri uomini, quando c'è un kamikaze che comunque sia, comunque vada, lui quando esce di casa per fare un'azione sa che non tornerà vivo, è ancora più difficile per noi. Come possiamo gestire anche questo aspetto? Anche questo è un problema reale che va gestito psicologicamente, sia per diciamo per rafforzare la nostra opinione pubblica che si terrorizza, sia per attaccare loro. Qui l'obiettivo qual è? Guardate, la prevenzione, l'unica misura di prevenzione seria è arrestare il terrorista prima che faccia l'attentato, identificarlo prima, quindi orientarsi a una ricerca sistematica del terrorista sconosciuto, insospettabile. E ci sono una serie di tecniche, io sul mio sito indico alcune cose che sono poi esperienze fatte. Faccio un esempio per far capire chi ci ascolta, che allora, stiamo interessando molto. Allora, il terrorista tipo che cos'è? È un giovane maschio fra i 20 e i 30 anni che ha certe carriere, quasi mai è un disperato, il più delle volte è una persona di ceto medio e di cultura abbastanza elevata, contrariamente a quello. Quindi che abbiamo già una tipologia, diciamo, dell'avversario tipo medio. Allora, prendi quello in una città, identifica un blocco e comincia a ridurlo progressivamente. Ad esempio, se vedi sulla carta d'acquisto, sulla la carta di credito, la carta d'acquisto per il mercato che compra dell'alcol, già quello rende poco probabile che si tratti di uno jihadista, e così via. Cumula una serie di indizi, su questa serie di indizi restringi sempre di più le persone che supponi possano, in mezzo alle quali possa esserci il terrorista. Quando hai ridotto a limiti piuttosto contenuti numericamente, inizi con la sorveglianza ravvicinata, e cioè intercettazioni, pedinamenti, eccetera, eccetera, fino a quando non identifichi Questo è un protocollo, Giannulli, che è stato già messo in atto in qualche paese contro altre forme di terrorismo? Volta, per esempio, qualcosa di molto simile faceva in fondo il nostro generale della Chiesa. Il nostro generale della Chiesa a Genova ci arrivò con un metodo molto vicino a questo, anche se con le sue caratteristiche. E soprattutto c'è una cosa, lezione di dalla Chiesa seria: se vuoi beccare il terrorista, pensa da terrorista. E un'ultima cosa, una volta che l'hai identificato il terrorista sconosciuto, tutto devi fare meno che arrestarlo. Quello diventa l'esca che tu hai per beccare tutto il resto. Quindi questi arresti clamorosi di cui leggiamo, in fondo sì... Spesso sono sciocchezze determinate da personale che vuol far carriera e ha fretta di fare il gol. Arresti uno, ma ne perdi 20. Allora, Bruno Ballardini, invece a questo punto vorremmo capire da te quali sono in realtà le residue fonti di cui ti puoi avvalere te o le persone come te che vogliono continuare a seguire, secondo un percorso individuale, personale, faticoso, ma tutto sommato interessante, quello che accade tutti i giorni. E rispetto a quello che dice Giannulli, hai qualcosa da integrare, da aggiungere, da contestare? Sì, fondamentalmente sono d'accordo. Giannulli poi si occupa di queste cose da un pezzo. Volevo dire, per quelli che mi scrivono, state facendo chiacchiere da bar, non è che ho chiamato una persona che lo fa tanto per fare, sono anni che si occupa di tutte le cose più importanti che avvengono in Italia rispetto, diciamo, all'attacco allo Stato in forma subdola e terroristica. Quindi non è che... in Italia c'è questo vecchio tic, questa piccola mania di denigrare o di sminuire il lavoro degli altri, cioè è un'abitudine un po' da paesotto. Ora, qui si sta parlando di cose serie. Vorrei aggiungere, integrare quello che ha detto Giannulli con la necessità di una vera, di un vero rinnovamento dei servizi, che non può passare per le sparate di Minniti, ad esempio, che invita in televisione i giovani italiani a mandare curriculum perché c'è un sacco di posti di lavoro. Scusa. Fa la figura dei servizi che stanno alla canna del gas, perché questo non va molto bene. E l'altra cosa è soprattutto coltivare una generazione di agenti madrelingua, cioè ho partecipato a una conferenza in cui si parlava di antiterrorismo, dove alcuni stranieri contestavano all'Italia il fatto che anche nelle forze dell'ordine mancano non i mediatori culturali, ma addirittura la gente che è bilingue, madrelingua e arabi, cioè gente che si può infiltrare. Questa è la cosa ridicola. In questo momento sarebbe molto importante avere persone che parlano la stessa lingua, che pensano come potrebbero pensare loro, questo è il punto. Certo. Quindi non ci saranno i ragazzi che mandano il curriculum perché cercano lavoro e magari hanno fatto i master. Non è esattamente questo. E ci fermiamo un istante e riprendiamo tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, Nicoletti, che trasmissione triste, superficiale, anche i migliori sbagliano, non so cosa vi volete sentirvi dire, ma però io sottolineo sempre il dissenso, del consenso non mi interessa, bisogna capire i punti in cui sbagliamo, e cosa triste, può essere allegra una trasmissione che parla di terrorismo, dove trovate che sia superficiale, che ha elementi oggettivi certi, diversi rispetto a quello che si scrive sui giornali, rispetto alle voci ufficiali. Però mi interessa sapere, Aldo Giannulli, quali sono i sistemi che usano per comunicare tra loro, visto che è così difficile e così complicato poi cogliere? Abbiamo capito che usano la rete nella sua massima potenzialità e espressione, quello che hanno sempre pensato di poter fare e nessuno ha potuto fare. Ma qual è il punto in cui poi esiste una sorta di impossibilità di cogliere la comunicazione per poter agire o prevenire, come diceva appunto lei? Allora, discorso lungo, noi ci fermiamo solo su due punti elementarissimi. Il primo, bisogna tenere presente una cosa, l'arabo è una lingua unica scritta, ma parlata è una lingua con fortissime differenze da nazione a nazione, da etnia a etnia. Quindi spesso c'è la barriera linguistica che funziona, quindi anche addirittura una telefonata intercettata non sempre è capita per quello che... C'è una grossa ambiguità. E beh certo, perché hai problemi di pronuncia, di significato, oltre che naturalmente linguaggi cifrati. La seconda cosa da tenere presente è la profonda differenza fra Al-Qaeda e ISIS. Al-Qaeda aveva un gruppo dirigente abbastanza ristretto che funzionava poi sulla base di un database in cui erano elencati tutti quelli che avevano partecipato alle brigate contro l'invasore sovietico provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dall'Egitto, eccetera, eccetera. E quindi volta in volta poteva scavare là. Per il resto c'erano gruppi, i cosiddetti lupi solitari, che agivano una specie di regime di franchising, per cui non è che ci fosse un ordine di Al-Qaeda, ma c'erano indicazioni generali e poi il gruppo di lupi solitari si attivava. Davano il kit e poi ognuno si organizzava. C'era il classico discorso in rete di Osama Bin Laden, oppure al-Zarqawi, e partiva l'iniziativa. L'ISIS è diversa, l'ISIS è strutturata proprio una vera e propria catena di comando, come dimostrano i frequenti viaggi avanti e indietro dalla Siria e come dimostrano il fatto che alcuni combattenti stranieri arrivano nella città dove devono fare l'attentato ma sanno già a chi rivolgersi, prendono subito contatto, quindi vuol dire che c'è una rete già organizzata con nomi noti al centro. Quindi siamo di fronte a due tecniche, due modelli organizzativi completamente diversi. Questo è un modello più classicamente militare, dove il contatto spesso è personale e ovviamente spesso passa attraverso l'uso del telefono o altri strumenti del genere, ma con linguaggi cifrati convenzionali che probabilmente cambiano molto spesso. Certo, la cosa viene a pensare, Bruno Ballardini, tutto questo non nasce certo per uno spontaneismo quasi tribale o per un'aggregazione marginale di persone che hanno deciso che da un giorno all'altro fanno i terroristi. Mi sembra che il piano strategico sia ben determinato. Non c'è nessuno spontaneismo, perché la teoria dei lupi solitari è abbastanza discutibile. Cioè, il discorso è che dietro agli attentatori di Parigi c'era un organismo di 24 persone, forse una trentina, qualcuno dice. Quindi tutto questo non si può improvvisare dall'oggi all'indomani e occorre che ci sia, come dice anche Giannulli, una rete già presente sul territorio. Io avevo segnalato che erano passati 4.000 jihadisti, erano stati già fatti passare a gennaio 2015 sulla indiscrezione fornita da Mike Giglio, reporter che mandava i suoi servizi dalla Turchia, che aveva intervistato un contrabbandiere. Che è una fonte aperta, chiunque poteva leggerla questa cosa. Chiunque poteva leggerla. Poi bisogna anche collegare i fatti e fare un ragionamento, quello che si usa nell'intelligence, si chiama ragionamento abduttivo, che consiste nel tenere conto della peggiore delle conseguenze e poi all'indietro andare a cercare tutte le tracce e i dati che possono confermare la possibilità certa, la possibilità molto forte di quell'evento. Questo è il normale procedimento con cui si possono prevedere con buona approssimazione gli eventi peggiori. Ora io mi auguro che qualcuno lo stia facendo, perché tutti i segnali adesso ci sono. Giannulli, visto che lei traccia molti suoi scritti uno scenario ipotetico di quello che potrebbe accadere se prendesse ancora terreno, al di là degli aspetti diciamo particolari, attentati, se veramente l'ISIS andasse avanti, la sua teoria che non converrebbe nemmeno a quelli che in questo momento sono suoi alleati. Beh, certo, ma infatti più che alleati... E quale sarebbe lo scenario dell'apocalisse secondo lei? Allora, ragioniamo. Noi abbiamo ci facciamo un racconto di questa situazione gravemente errato, perché pensiamo che sia il conflitto fra Islam e Occidente. Infatti noi portiamo in giro i presepi, pensiamo che a loro interessi il nostro presepe, queste cose qua. Ma figurati, soprattutto perché non capiamo che il conflitto principale è un conflitto interislamico, una guerra civile islamica. Qui nessuno dice che il 95% delle vittime del terrorismo jihadista sono islamici. Quindi attenzione. Detto questo, ci sono una serie non di alleati, attenzione, di utilizzatori dell'ISIS. Arabia Saudita, Qatar, Turchia fanno un gioco estremamente cinico utilizzando l'ISIS per i propri disegni politici, prontissimi a mollarla, intendiamoci. È per questo che io, più che andare a fare un intervento inutile in Siria, dopodiché anche se elimini l'ISIS, i termini della crisi, terrorismo, crisi siriana, cioè, rimangono uguali a quelli di prima. Quindi il problema, è proprio dentro al mondo islamico, diciamo, una contrapposizione forte fra radicalismo e, diciamo, laicizzazione della visione generale della vita. Sì, ma vorrei far presente che la visione che noi abbiamo è totalmente sbagliata, perché scambia per Islam moderato, per esempio, i sauditi, che sono il luogo dove è nato il wahabismo, che è Islam ortodosso e fazioso. Beh, io quando ho letto che hanno condannato un adultero a essere decapitato, crocifisso, finché non si putrefà il cadavere, mi viene da pensare come possiamo fare le visite ufficiali pensando che abbiamo a che fare con nostri simili. Ma sono quelli che poi hanno, tutte le formazioni jihadiste sono nate dal seno wahabita, che è quello, la scuola nata in Arabia Saudita. Quindi il vero problema nostro sarebbe esercitare una pressione, la testa della vitera. La vitera, d'accordo, è l'ISIS, Al-Qaeda, cioè, ma la testa della vitera sta in Arabia Saudita. Ha molto più senso una politica di pressioni forti verso questi utilizzatori che non utilizzatori che, attenzione, sono prontissimi a mollare l'ISIS nel momento in cui il gioco diventasse troppo pericoloso. Vorrei ricordare che Osama Bin Laden era di casa sua nella famiglia reale saudita, ed è solo dopo l'attentato delle due torri e successive conseguenze che l'Arabia Saudita molla. È diventato imbarazzante come ospite, diciamo. Quindi attenzione, i termini, la grammatica della situazione è questa. Non è quella che ci viene raccontata da Oriana Fallaci e dagli altri di un Islam immaginario. Si pensa a un Islam monolitico, c'è una cosa che non è monolitica nel mondo, è l'Islam. Tant'è vero che sta facendo non una, ma una serie di guerre civili interne atroci che si intersecano, che stanno producendo questo. Noi siamo un nemico di rimbalzo. Mi fa ridere, non che il nemico principale. Questo mi sembra molto chiaro, che poi la vulgata che passa, l'indignazione con la gente senza la propria pelle, sembra che ci sia un disegno per toglierci i re magi, il presepe, l'alberello. Ma pensiamo un attimo con una mentalità leggermente più elastica e più leggera, se possibile, quella che è l'entità del problema. Grazie ai miei ospiti, grazie a Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, alla prossima.